Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Frana nel Biellese, un uomo è morto, è situazione ancora critica. Lei, vi, dove ieri ci sono state due vittime, una serie di smottamenti ed esondazioni stanno creando problemi sulla rete ferroviaria. Grillo a Bruxelles, siamo in guerra con la Banca Centrale Europea, non con l'ISIS o la Russia. Sulla legge di stabilità e sul Jobs Act, sciopero generale della CGIL il 5 dicembre. Intanto Juncker interviene sul caso che lo coinvolge, quello dei benefici fiscali per le aziende in Lussemburgo, tutto legale, dice. Il caos dei test di medicina per i rettori e il rischio l'anno accademico, è stato richiesto un incontro con il ministro Giannini. Accordo tra Stati Uniti e Cina sulla riduzione delle emissioni di gas serra, ma per Pechino la diminuzione dal picco scatterà nel 2030. Seconda notte di scontri a Tor Sapienza, periferia di Roma, davanti al centro per rifugiati. La cooperativa che lo gestisce dice: ora abbiamo paura. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete potete scriverci effettogiorno@radio24.it oppure via sms al 349-238-6666. E purtroppo anche oggi siamo costretti ad aprire parlando degli effetti del maltempo sul territorio. In questo caso, o meglio anche oggi, una frana che ha ucciso una persona e un quadro generale molto difficile in alcune parti d'Italia. Il punto generale con Anna Marino. Buongiorno. Buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. Il maltempo, come dicevi, perversa da nord ma anche a sud. Un morto nel Biellese, ucciso da una frana caduta su una casa, creva cuore, che ha travolto e ferito anche il vicino, ora all'ospedale di Borgosesia. Il Biellese è una delle zone più colpite dal maltempo in Piemonte. Nelle ultime ore 30 persone sono state evacuate nel Novarese. Attenzione ai massimi livelli per i principali laghi del Piemonte, il Maggiore, l'Orta, ed è ancora allerta 2 in Liguria fino alle 15. A Genova l'aeroporto è in tilt e continua a piovere anche a Levante, 1000 abitazioni sono ancora senza elettricità nel Tigullio. Levi, il paese delle due vittime, è ancora senza luce e acqua. A Ponente è ancora sott'acqua la provincia di Savona, aziende agricole allagate, coltivazioni distrutte nell'Albenganese, a Ceriale sono esondati diversi piccoli rivi. E preallarme per la piena del fiume Po nel Ferrarese, Piacentino, Parmense, Reggiano. E oggi è stato emesso lo stato di allerta anche in Lazio, in diverse zone del sud. Nel Tarantino, in particolare, sono state segnalate anche due trombe d'aria che non hanno provocato vittime. Il sindaco di Ginosa, Vito De Palma, ha ordinato la chiusura delle scuole. Sentiamo. Abbiamo avuto questa tromba d'aria intorno alle 6 di stamattina. Ha investito in particolar modo una zona di Marina Ginosa, quella già interessata dall'alluvione del 2011. Non ci sono danni a persone fisiche, grazie a Dio. Ci sono ingenti danni invece alle strutture private ed anche alla rete elettrica, telefonica, chiaramente ha portato via pari della luce e quant'altro. Prego, ed è tutto Anna. Per adesso. Grazie ad Anna Marino. Noi abbiamo già accennato alla situazione in Liguria, ritorniamo a fare un punto con Andrea Ferro. Andrea, eccoci. Sì, buongiorno Simone, piove ancora su Genova e su parte della Liguria, ma dovremmo essere alla fine di questa lunghissima emergenza. Lo stato di allerta 2 scade infatti tra meno di 2 ore. Secondo le ultime osservazioni meteo, la perturbazione si sta esaurendo, ma ristagnerà ancora qualche ora sulla Liguria con precipitazioni via via sempre meno intense. L'ultimo flash arriva dall'aeroporto, ne parlavate già nel servizio di Anna Marino, che di fatto è chiuso in seguito all'avaria di un apparato di sicurezza. Il guasto è stato causato in mattinata dagli allagamenti, i voli sono dirottati in altri scali, in particolare a Pisa, Torino e Milano. La pioggia di queste ore flagella un territorio già saturo, le frane non si contano, tra la notte e le prime ore del mattino case minacciate dagli smottamenti nella zona interna del ponente genovese, altri sfollati. Nel Savonese, come vi dicevate, si spala fango, in particolare nell'Albenganese, momenti di paura nella zona del Levante, in particolare a Levi, l'area del crollo dove sono morti marito e moglie è stata posta sotto sequestro dalla procura che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. E per il momento da Genova è tutto, Simone, ti restituisco la linea. Grazie Andrea Ferro, anche oggi e anche per questi aggiornamenti. Ci sono stati parecchi problemi questa mattina per quanto riguarda la rete ferroviaria, una serie di smottamenti che hanno investito alcune parti, bloccando naturalmente alcuni punti e alcuni tratti. Il punto con Orazio Iacono, che è direttore d'esercizio rete di Rete Ferroviaria Italiana. Buongiorno Iacono, qual è la situazione? Buongiorno a lei, buongiorno a Radio Telespettatori. Allora, la situazione è questa: il forte maltempo in alto al nord ha provocato la sospensione della circolazione su alcune linee ferroviarie, in particolare allora, in Liguria, Piemonte e Triveneto. Per quanto riguarda, partiamo dalla Liguria, sulla linea Genova-Aquila la circolazione è sospesa dalle 3.40 di questa mattina per un terreno che ha invaso la sede ferroviaria tra Genova-Bozzolo e Genova-Acquasanta, una linea a carattere regionale. Per garantire la mobilità, Trenitalia ha attivato un servizio con bus sostitutivo tra Campo Ligure e Genova. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono impegnati per ripristinare il servizio, che tornerà a regolare nella mattinata di domani. Poi passiamo al Piemonte, sulla linea Milano-Domodossola, la circolazione è stata sospesa dalle 23 di ieri sera per una frana che è interessata il tratto tra Stresa e Belgirate. I treni regionali sono sostituiti con bus tra Stresa e Arona, i treni internazionali via Domodossola sono cancellati, i viaggiatori, i passeggeri da e per Svizzera utilizzano i treni da Milano via Chiasso. Previsioni di ripristino per questa linea Milano-Domodossola per la serata di oggi. Poi abbiamo sempre sì, Piemonte. Se può stringere un po', Iacono, brevemente sì, sulle altre tratte. Tra Omegna Orte e poi basta, perché sul Triveneto, tra Venezia e Trieste, abbiamo ripreso a circolare dalle 11 di questa mattina, a seguito dell'interruzione per l'esondazione del canale Cormor. Grazie dunque ad Orazio Iacono, direttore esercizio rete di Rete Ferroviaria Italiana, anche a lei per questi aggiornamenti. La segreteria della CGIL, notizia di poco fa, l'avete già sentita nei titoli, in parte propone al direttivo 8 ore di sciopero generale per il 5 dicembre, con manifestazioni a livello territoriale. Tutto questo contro la legge di stabilità e il Jobs Act, lo ha annunciato il segretario della CGIL Susanna Camusso, auspicando che CISL e UIL convergano sulla decisione di una mobilitazione generale e sulla data. E passiamo alle cronache da Bruxelles, dove un po' a sorpresa questa mattina il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker è intervenuto sul caso che lo coinvolge e lo riguarda quando era premier lussemburghese e riguarda i benefici fiscali per una serie di aziende, una vicenda emersa da un'inchiesta giornalistica della quale vi abbiamo parlato approfonditamente nelle settimane scorse. Facciamo il punto con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Beda, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Sì, questa conferenza stampa di Jean-Claude Juncker era in attesa. Naturalmente oggi si è riunito il Collegio dei Commissari e quindi era previsto un intervento del vicepresidente della Commissione, che avrebbe presentato alla stampa i risultati della riunione. In realtà si è presentato nella sala stampa della Commissione europea lo stesso presidente, che ha preso posizione sullo scandalo fiscale che ha colpito il suo paese nei giorni scorsi. Questa è la prima volta che Juncker si esprime pubblicamente dopo che è stata pubblicata la settimana scorsa una lunga inchiesta in vari giornali. Tre i messaggi che Juncker ha voluto precisare. Il primo messaggio: non vi è, secondo lui, nessun conflitto di interesse all'interno della Commissione europea tra la sua posizione di ex primo ministro del Lussemburgo e attuale presidente della Commissione. La Commissione continuerà ad analizzare e ad indagare su alcuni paesi europei, in particolare il Lussemburgo, ma non solo, per questi accordi fiscali tanto generosi quanto controversi che hanno concesso a varie multinazionali. Quindi nessun conflitto di interesse secondo Juncker. Il secondo messaggio è un messaggio invece più politico, più concreto per certi aspetti. Ha annunciato di aver proposto alla Commissione di preparare al più presto una direttiva con l'obbligo che imporrebbe agli Stati membri dell'Unione lo scambio automatico di questi accordi fiscali per le società multinazionali. Come dicevo prima, ci sono vari paesi che hanno concesso nel corso degli anni questi accordi fiscali, il Lussemburgo, l'Irlanda, l'Olanda. Juncker ha deciso di andare nella direzione dello scambio automatico di questi accordi fiscali. Terzo messaggio di Juncker oggi: ha ribadito ancora una volta che la priorità di questa commissione sarà la lotta all'evasione fiscale e alla frode fiscale. Allora, ha spiegato che se Ha spiegato che se il Lussemburgo in questi anni ha concesso accordi fiscali, lo ha fatto perché per mancanza di armonizzazione fiscale all'interno dell'Unione Europea e quindi ha detto ci vuole maggiore armonizzazione fiscale. Allora grazie a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. E a Bruxelles oggi tra l'altro ha parlato anche di Juncker, c'era Beppe Grillo che su Juncker ha detto è l'ex ministro di un paradiso fiscale. È arrivato Grillo per presentare il suo referendum contro l'euro, sentiamo un brano delle parole che ha detto. E come potete pensare che noi facciamo ancora dei sacrifici? Noi ci rivolgiamo a riprendere, questo deve essere chiaro, la nostra sovranità monetaria, la nostra Banca d'Italia che possa stampare dei soldi nella nostra terra. Noi vogliamo salvare le aziende, è inutile, se partissero le immagini, ma non partono le sue memorie le immagini. Noi da quando siamo nell'euro, tutti i parametri sono peggiorati, tutti. Così Grillo, che ha detto tra le altre cose siamo in guerra con la Banca Centrale Europea, non con l'ISIS o con la Russia, la Germania è più mafiosa e più corrotta di noi. La politica italiana intanto discute sulla legge elettorale, il tutto in attesa dell'incontro tra Renzi e Berlusconi previsto per le 18. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Quello di oggi potrebbe essere l'incontro decisivo, di certo sarà l'ultimo nelle intenzioni di Renzi, che di fatto ha lanciato un ultimatum a Berlusconi. Il tempo dei rinvii è finito, adesso è il momento di decidere, ha detto il Premier, che punta all'approvazione della riforma elettorale nell'Aula del Senato entro l'anno, con o senza Berlusconi. Renzi si è detto comunque ottimista, soddisfatto dell'esito del vertice di ieri di Forza Italia. L'ex Cavaliere è riuscito a ricompattare il partito, a far pace con Fitto e questa, dice il Premier, è una garanzia per la tenuta del patto del Nazareno. Dal canto suo l'ex Premier ha confermato la disponibilità al confronto. Gli azzurri non vogliono abbandonare il tavolo delle riforme, ma non vogliono diktat. Le decisioni insomma si prendono insieme. In particolare Berlusconi vorrebbe incassare un innalzamento della soglia di sbarramento al 4%, una concessione che potrebbe ottenere da Renzi, anche se per Alfano questo punto non dovrebbe essere toccato. Una lunga giornata quella di oggi, perché ad attendere Renzi anche il suo partito con la direzione convocata per le 21. In quell'occasione il Premier chiederà il via libera ad andare avanti non solo sulla riforma elettorale ma anche su Jobs Act e legge di stabilità, provvedimenti sui quali la minoranza interna, come sappiamo, chiede da tempo modifiche. Da Roma per il momento è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. A sorpresa il killer dei casalesi, Setola, ha deciso di non collaborare più con la giustizia. Laura Viggiano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ha cambiato idea e ha deciso di non pentirsi. Lo ha annunciato stamattina nel corso di un'udienza del processo per il duplice omicidio Pecchia Orabona che si svolge a Santa Maria Capua Vetere. Il capo dell'ala stragista del Grande Casalesi, Giuseppe Setola, accusato e reo confesso di molteplici omicidi, era in videoconferenza alla Rebibbia, ha anche revocato il mandato all'avvocato Rachele Merola, iscritta nel registro della DDA per i difensori dei pentiti, e ha nominato per questo procedimento un altro legale che ha accettato provvisoriamente. Un vero e proprio colpo di scena dopo l'annuncio del mese scorso che sarebbe stato dito da un sogno. Setola a metà ottobre aveva infatti detto di aver sognato Papa Wojtyla che lo aveva invitato a pentirsi. Ora vedremo come cambierà il suo atteggiamento. Intanto un problema è già sotto per un altro processo in cui Setola è imputato, quello dell'omicidio dell'imprenditore Noviello. Oggi la prevista udienza, ma al momento non si può procedere perché Setola risulta senza difensore. Laura, brevemente, si ha idea del perché Setola abbia cambiato idea nel giro di un mese? No, al momento assolutamente nulla. Non abbiamo avuto ancora modo di parlare con l'avvocato Diana, che ha accettato provvisoriamente l'incarico per il processo Pecchia Orabona. Non sappiamo neanche se lui direttamente ha avuto modo di parlare con Setola, quindi è tutto quanto ancora da vedere e da scoprire. Grazie Laura Viggiano, in diretta da Napoli. Abbiamo parlato del dissesto idrogeologico, abbiamo parlato delle piogge di questi giorni e si è parlato spesso in queste ore di quanto questi fenomeni abbiano a che fare col cambiamento climatico. Per cercare di contrastarlo, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo importante. L'accordo c'è, la firma pure, i dettagli non ancora, si spera che arrivino. Gli Stati Uniti si sono impegnati per una riduzione tra il 26 e il 28% delle emissioni entro il 2025, mentre Pechino si impegna a diminuire il picco delle emissioni entro il 2030. Il presidente Xi Jinping però non ha specificato in quale percentuale, ha solo detto che per raggiungere questo obiettivo le fonti energetiche pulite, come la solare e l'eolica, potrebbero rappresentare il 20% della produzione totale cinese entro il 2030. aperta. Forse un modo per recuperare quello che la Cina potrebbe perdere in crescita economica se riducesse i consumi di energia. Today I am proud that we can announce a historic agreement. Orgoglioso Obama, che ricorda come Stati Uniti e Cina siano le maggiori potenze al mondo e siano dunque responsabili per l'inquinamento atmosferico. L'anno prossimo se ne parlerà a Parigi alla conferenza sul clima per ridiscutere gli obiettivi internazionali. Nel frattempo le due superpotenze si impegnano, spianando la strada anche al possibile accordo in campo militare, una sorta di notifica delle attività per evitare incidenti. Ma è soprattutto sul commercio che i cinesi la fanno da padroni in casa loro, rispondendo alla partnership transpacifica, dalla quale sono escluse Pechino e Mosca, con un nuovo progetto di scambi commerciali che andrà dal Baltico all'Oceano Indiano e soprattutto al Pacifico. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Frana nel Biellese, un uomo è morto, situazione ancora critica a Levi, dove ieri ci sono state due vittime, e in tilt al momento, come avete sentito anche nell'aggiornamento sulla viabilità, l'aeroporto di Genova per un problema alla torre di controllo. Grillo a Bruxelles dice: siamo in guerra con la BCE, non con l'ISIS o con la Russia. Sulla legge di stabilità e sul Jobs Act, sciopero generale della CGIL il 5 di dicembre. Juncker interviene sul caso che lo coinvolge, quello dei benefici fiscali per le aziende in Lussemburgo. Tutto legale, dice. È il giorno di Rosetta. Entro le 17 si saprà se il suo lander File sarà atterrato con successo sulla cometa dopo 10 anni di missione. La prima discesa mai tentata sul nucleo appunto di una cometa, un investimento europeo di 1 miliardo e 400 milioni che ha dato lavoro a più di 1000 persone, ma l'esito è tutt'altro che scontato, visto che nel corso della notte c'è stato qualche problema. Il racconto di Franco Bonacina, portavoce del presidente dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, al microfono di Valentina Furlanetto. Comunque vada, è un successo perché nessuno ha mai messo in orbita così ravvicinata, stiamo quasi toccando la cometa con Rosetta, siamo a soli 20 chilometri, il modulo di atterraggio è stato rilasciato poche ore fa, sta avvicinandosi al nucleo, praticamente a passo d'uomo, un metro a secondo, la attrazione gravitazionale è bassissima, è 100.000 volte più bassa di quello che c'è su Terra, è come se il modulo di atterraggio pesasse un grammo. È molto complicato, ci sono queste tre zampe che assorbono, sono degli ammortizzatori per il modulo d'atterraggio, l'energia assorbita da queste tre zampe viene utilizzata per imprimere un impulso a tre viti, viti da ghiaccio che devono tenere le zampe fisse al terreno, ci sono poi due arponi che si attivano e un retrorazzo addirittura che si accende per evitare che il modulo possa rimbalzare all'indietro. Quindi è una operazione sofisticatissima. Questa notte c'è stato un piccolo problema giusto appunto col retrorazzo, quindi dita incrociate, adesso non c'è più niente da fare, non possiamo più intervenire qui dal centro di controllo dell'ESA in Germania, il modulo sta scendendo per i conti suoi in maniera completamente autonoma. Naturalmente vi aggiorneremo su quello che succederà di questa missione senza precedenti. Saluto Gabriella Rubino, che è presidente, fa parte quantomeno della cooperativa Un Sorriso. Buongiorno Rubino, benvenuta. Salve, buongiorno. Salve. La cooperativa. La responsabile del centro minori all'interno della struttura di Viale Giorgio Morandi. Benissimo, quindi ha già specificato il nome, una via che i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere, è una via di Tor Sapienza, siamo alla periferia di Roma, dove ieri c'è stato un nuovo assalto al centro che voi gestite. Come sono andate le cose? Allora, in realtà diciamo che è un po' lunga la situazione, però diciamo che ieri sera, dopo un lungo presidio delle forze dell'ordine davanti alla struttura, dopo minacce e provocazioni da parte della popolazione residente e di altre persone evidentemente insomma intervenute dall'esterno, le forze dell'ordine si sono allontanate temporaneamente e abbiamo subito questo ennesimo attacco, ennesimo nel senso che è già in realtà la seconda notte, ma anche due settimane fa poche persone avevano già erano già presentate con stranghe, insomma, volevano entrare. Lei, mi scusi Rubino, lei ha parlato di persone esterne, cioè non residenti del quartiere, no, lei ha prove di questo? Beh, prove, io non sono ovviamente un inquirente, però il numero di persone e una serie di elementi ci fanno immaginare o ci fanno, diciamo, pensare che non si tratti solo ed esclusivamente di dei residenti all'interno del quartiere, o quantomeno all'interno dei palazzi circostanti alla struttura. Senta una cosa, immagino che abbiate paura, avete paura anche per voi personalmente, insomma, al di là della... Ovviamente, diciamo che una bomba carta non colpisce qualcuno in particolare, quindi certo siamo tutti in pericolo ovviamente. Io vorrei, se me lo permette, anche un po' però precisare, specificare, al di là di questo in generale, cosa sta un po' succedendo, no? Nel senso che poi quello che arriva, non avendo noi ancora anche fatto un comunicato stampa, perché magari eravamo anche un po' più impegnati a difendere i nostri ospiti, diciamo, sì. I ragazzi, gli ospiti del centro, però diciamo che si tratta di... come dire, questo attacco alla struttura, al centro di accoglienza, noi lo leggiamo come comunque un atto strumentale, nel senso che ovviamente in un quartiere innegabilmente degradato, abbandonato a se stesso, non per colpa necessariamente delle persone che ci vivono. Allora, mi scusi, perché arriva qualche ascoltatore che naturalmente ci chiede, della vicenda abbiamo parlato ieri, ci dice, okay. No, aspetti, la fermo io, ci scrive un ascoltatore, non riesco a capire il perché dell'attacco, che cosa è successo, che ci sono stati degli episodi di violenza nei giorni scorsi nel quartiere che sono stati attribuiti a degli immigrati una serie di abitanti del quartiere, la signora adesso ci dice, anche persone esterne, hanno deciso di assaltare questo centro, che in realtà però, Rubino, mi spieghi bene, è un centro per rifugiati in realtà e minori. Allora sì, è un centro è un palazzo di 6 piani che accoglie sia minori stranieri non accompagnati, richiedenti o non richiedenti asilo, non necessariamente richiedenti asilo, e che accoglie in un'altra sua parte degli adulti richiedenti asilo. Okay. Quindi richiedenti asilo sostanzialmente, non clandestini, cioè tecnicamente non immigrati. Non potreste nemmeno, perché questi vengono ospitati in realtà in strutture transitoriamente in strutture di diverso tipo. Esatto. Questo è il punto. Senta, è prevista una nuova manifestazione, mi sembra di aver capito, per questa sera? Diciamo che in realtà i residenti ci hanno minacciato che questa notte entreranno all'interno della struttura, queste sono le minacce, finora le minacce si sono realizzate. Ci tengo un attimo, se mi permette, di precisare quello che stavo dicendo, cioè non c'è un reale collegamento tra le aggressioni che avvengono all'interno del quartiere e i ragazzi che sono ospiti nel nostro centro e quindi la nostra struttura. Nel senso che mi chiedeva, lei ha prove o evidenze? Non esistono alcune prove, e noi siamo certi che non sono i ragazzi ospiti nel nostro centro che hanno commesso dei reati, non è esattamente così, cioè non è proprio così, esatto. Noi abbiamo comunque un registro delle entrate e delle uscite e non sono i nostri ragazzi, ma c'è un, secondo me, attacco che è comunque sicuramente dovuto all'esasperazione delle persone per le loro condizioni, per tutta una serie di cose, e scatta la caccia allo straniero, no? Questo così si chiama sostanzialmente. Allora, la ringrazio intanto per il suo racconto, grazie a Gabriella Rubino, che è responsabile per la cooperativa Un Sorriso della gestione della parte minori all'interno di questo centro di accoglienza. Naturalmente su questa vicenda andremo a ritornare. Ieri, come sapete, abbiamo sentito il comitato di quartiere, andremo a sentire anche qualche responsabile politico su questa vicenda, perché non è il primo fatto di questo genere che avviene alla periferia di Roma. Un altro atto di violenza avvenuto ieri è quello in un circolo del Partito Democratico a Milano, dove era in corso una riunione del SUNIA, che è il sindacato degli inquilini, dove c'è stato un vero e proprio raid. Lina Calonghi, avvocato del SUNIA di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Che cosa è successo esattamente? Ma guardi, noi ieri avevamo all'interno di questa sede del circolo del Partito Democratico, dove noi una volta alla settimana facciamo la consulenza ai nostri inquilini, una riunione, una delle riunioni che noi teniamo mensilmente con i comitati del quartiere sui temi della manutenzione degli stabili. Riunione alla quale partecipavano anche i tecnici di Aler, che sono proprietari di quegli stabili. Alla riunione partecipavano circa una quarantina di inquilini degli alloggi popolari, tutte persone anziane. La riunione è iniziata alle 15.30 e dopo 5 minuti un gruppo composto da una quindicina di ragazzi mascherati e con passamontagne ha divelto la porta di accesso alla sede del circolo del Partito Democratico, sono entrati e dopo aver raso al suolo l'intera sede hanno con degli idranti sparato della polvere rossa che ha imbrattato le pareti e che ha creato problemi di respirazione agli anziani che erano presenti, che abbiamo dovuto far scendere poi dalla finestra. Allora, posto che un atto di questo genere non ha ovviamente alcuna giustificazione, però probabilmente ha una spiegazione, vi siete fatti un'idea voi? Ma guardi, io le posso dire che su questo stanno chiaramente lavorando le autorità competenti, che hanno il compito di accertare le responsabilità, e dall'accertamento delle responsabilità probabilmente poi si potrà capire anche qual è la spiegazione. Posso dirle questo, che la nostra riunione riguardava, ripeto, il tema delle manutenzioni. Lo striscione che hanno lasciato e che è stato ritrovato dai carabinieri portava la scritta, no, agli sgomberi blocchiamo la TAV. Detto questo, nessuna attinenza al tema quindi non era minimamente collegato al tema che state non trattando. Non era minimamente collegato, ovvero è che il tema delle occupazioni abusive che è alla ribalta della cronaca danese in questi giorni è un tema che riguarda anche quel quartiere. Cioè il sospetto, minimamente... mi scusi, mi faccia sciogliere la cosa, Calonghi, il sospetto è che possa essere un attacco contro la sede del PD e non come dire, un attacco alla riunione che stavate facendo. No, io non ho questo sospetto. Io penso che l'attacco fosse forse rivolto ad entrambe, perché sia il Partito Democratico che il SUNIA su questo tema, sulla battaglia della legalità, sono impegnati. Grazie a Lina Calonghi, avvocato del SUNIA di Milano, per questo racconto. Ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo, e c'è la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Una notizia appena battuta dalle agenzie: il governo ha presentato appello contro la decisione del TAR che, come ricorderete, aveva annullato la sospensione del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che era dunque tornato in carica. Ebbene, il governo ha fatto appello contro questa decisione. Una frana nel biellese: un uomo è morto, situazione ancora critica in una parte della Liguria, è andata in tilt tra l'altro la torre di controllo dell'aeroporto di Genova. Grillo a Bruxelles: siamo in guerra con la BCE, contro la BCE, non contro il l'ISIS o la Russia e presenta il suo referendum per l'uscita dall'euro. Intanto il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, interviene sul caso che lo coinvolge, quello dei benefici fiscali per le aziende in Lussemburgo, tutto legale, dice. C'è stata una seconda nota di scontri a Tor Sapienza, periferia di Roma, davanti al centro per rifugiati. Come avete sentito, la cooperativa che lo gestisce dice: ora abbiamo paura, alcuni hanno minacciato, questa sera entreremo nel centro. La borsa. Borse in diretta. In calo dell'1,81% il FTSE All Share, questo il quadro per quanto riguarda i mercati, quindi una giornata complessivamente negativa. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno, e cosa succede? Buongiorno, sì, Milano è piuttosto pesante, perde oltre l'1,5%, va peggio delle altre borse europee, Londra limita le perdite allo 0,4%, Francoforte all'1,3%, Parigi allo 0,9%, a pesare ancora una volta il comparto bancario, che è molto pesante. Le trimestrali delle banche italiane, i risultati trimestrali diffusi in questi giorni, hanno rivelato conti in chiaroscuro, con alcuni risultati sopra le attese, altri al di sotto. Le vendite però sono generalizzate, puliscono soprattutto le popolari. Popolare di Milano fa meno 4,3%, Popolare Emilia Romagna meno 4,3%, Banco Popolare meno 3,5%. L'unica a resistere poco sopra la parità è UBI. E grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, e a Isabella Tasso. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E ritorniamo in questa seconda parte su una vicenda molto italiana, che è quella dei test per l'ammissione a specializzazione di medicina. Una vicenda molto italiana, diciamo, perché come vi abbiamo raccontato ampiamente negli scorsi mesi, ci sono stati parecchi problemi. C'è stato quell'errore che ha riguardato, insomma, l'inversione di due prove. Il ministro ha deciso di intervenire con un provvedimento che di fatto sulla massa dei test previsti eliminava i due per così dire sospetti o soggetti all'errore. Ma nel frattempo che cosa è successo? È successo che sono partiti i ricorsi e i tribunali amministrativi hanno iniziato a dare ragione ai medici, perché è il caso di chiamarli medici e non studenti, perché si avviano verso la specializzazione, riammettendoli. E questo riguarda però sia i test di specializzazione sia i test di ammissione a medicina medesima. Saluto Roberto Lagalla, che è rettore dell'Università di Palermo e vicepresidente delegato per le tematiche di medicina. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, grandissima confusione, perché ci sono da una parte i test di specializzazione, i test per l'accesso alla specializzazione, e dall'altra parte i test di ammissione veri e propri. Voi oggi avete lanciato un allarme, avete detto: signori, in questa condizione noi non riusciamo a garantire la tenuta dell'anno accademico. Sì, il ministro è stato doverosamente informato di una situazione di assoluta criticità negli atenei italiani, soprattutto nei grandi atenei, che in questo momento vengono investiti a seguito delle sentenze dei tribunali amministrativi, vengono investiti da una serie di cospicua di nuove immatricolazioni che tendono addirittura a raddoppiare o triplicare in alcuni casi il numero dei posti disponibili secondo programmazione nelle varie sedi. Questo pone delle preoccupazioni importanti sia sul piano organizzativo e logistico, sia nella prospettiva anche sulla qualità complessiva della formazione, nel momento in cui si tratterà di dover indirizzare questi studenti alle attività di laboratorio e a quella di frequenza nelle corsie universitarie e ospedaliere. La faccio molto semplice, Lagalla: non avete posti, non avete abbastanza posti? Beh, no, guardi, il problema non è tanto quello dei posti. I posti certamente sono un problema, ma forse paradossalmente, anche se il più rappresentato, sono il minore dei problemi. Abbiamo delle difficoltà reali nel reclutamento del personale docente, che non si può moltiplicare all'infinito, e abbiamo dei problemi anche di formazione rispetto al numero dei tutor che in futuro potranno assistere questi studenti nelle attività di corsia e nelle attività di laboratorio. È un problema complessivo ed è un problema prospettico molto importante. Questo è il punto generale, ma che cosa si può fare sostanzialmente? Perché insomma non riesco a vedere la via d'uscita alla galla, no? Perché ci sono dei ricorsi, i tribunali amministrativi decidono il reintegro di queste persone, come si fa, come se ne esce? Certamente esiste un problema immediato, che è quello di trovare copertura e sostenibilità a questa emergenza, ed è quello sulle quali le università si stanno impegnando, chiedendo anche l'aiuto del Ministro in termini di risorse aggiuntive proprio per destinarle specificamente al reclutamento dei docenti e alla implementazione della logistica. Quanti soldi ci vogliono secondo voi? Ma secondo noi ci vogliono almeno un paio di milioni da destinare su scala nazionale a questo intervento, diciamo, emergenziale. E questa è per l'emergenza immediata, come esatto. Dire, per gestire l'avvio, per così dire. Esatto, poi esiste un problema di riportare, diciamo, rivedere complessivamente le modalità di accesso alla facoltà di medicina, perché bene dice il Ministro quando dice che questi test, così come formulati, ma soprattutto anche così come diciamo penalizzati dalle sentenze della magistratura, ormai non sono più conducenti, motivo per il quale ci stiamo impegnando in un tavolo di confronto ministeriale a verificare quali possono essere le nuove modalità di accesso a medicina, ferma restando la posizione della CRUI che non può prescindere dal numero programmato, cioè una liberalizzazione dell'apertura di medicina è materialmente impossibile in questo momento. Grazie a Roberto La Galla, rettore dell'Università di Palermo, e all'interno della CRUI, della Conferenza dei Rettori, e il vicepresidente delegato proprio per le tematiche di medicina. Noi, prima del traffico, parliamo di musica. Mr. Richards, vi chiedo il massimo silenzio. Grazie. Versione rarissima di O Sole Mio, It's Now or Never, naturalmente è la versione in inglese, cantata da Ray Charles, la traccia speciale del nuovo album di Renzo Arbore, doppio CD di duetti e live dal titolo E pensare che dovevo fare il dentista, doveva andare davvero così, racconta Arbore al microfono della nostra Marta Cagnola. Mio padre aveva un ambulatorio, si dice da noi, accorsato, era il miglior ambulatorio della mia città. Voleva naturalmente che qualcuno ereditasse l'ambulatorio. Mio fratello no, perché mio fratello ha fatto medicina, ma poi pure lui è diventato pianista per un periodo, poi antiquario. Io ho fatto varie prove, sono svenuto regolarmente 4-5 volte col camice bianco, però quando poi ho collezionato tutti questi successi mi è venuto in mente, pensa tu, che mio padre voleva che facesse il pianista e il dentista. Però a parte questo c'è la passione per la musica, anche nella radio, nel cinema, io ho fatto la musica, ho fatto il jazz, la radio per esempio, io ho improvvisato tutto, ho imparato alla radio, io ero timidissimo, a parlare, a far lavorare la fantasia, andare così, forse perché da giovane ero abbastanza il più timido della compagnia, ho ascoltato per tanti anni, poi alla fine mi sono sfogato, poi parlo più di... Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Pechino, Mario Platero. Banda, i militari, il saluto militare, visita di Stato per Barack Obama qui al Palazzo del Popolo, dove mi sono trovato in prima mattinata proprio per seguire l'incontro fra Xi Jinping e Barack Obama. Ecco, la visita di Stato è venuta in realtà dentro il Palazzo, in questa enorme sala che è grande quanto una piazza d'armi, lì i leader hanno passato in rivista i soldati, hanno ascoltato i saluti per poi ritirarsi nel loro primo incontro privato. Successivamente c'è stato un incontro allargato con le delegazioni. Ecco, tutto questo in una splendida mattinata di sole, fredda perché ventosa, davvero molto molto vento, che però questo vento spazzava via lo smog e dunque ci ha dato un cielo raramente molto azzurro qui a Pechino, che è sempre avvolta dallo smog, e invece c'era questo cielo azzurro meraviglioso sopra la città proibita, che si trova esattamente davanti al Palazzo del Popolo. È una coreografia perfetta per questo vertice che di fatto ha riaffermato, anzi ha rilanciato, il G2, il gruppo dei due, Cina-Stati Uniti, il ponte di comando per la stabilità globale, sul quale sono saldamente collocati Washington e Pechino. I due leader hanno riaffermato l'intenzione dei due paesi di lavorare insieme dopo un periodo di freddezza, a 5 anni dal primo viaggio di Obama a Pechino, dove devo dire l'inesperienza di Obama non giovò al presidente americano appena all'inizio del suo mandato. Un rilancio a 35 anni dalla riapertura delle relazioni diplomatiche, e devo dire che si è colta in questa enorme sala dove abbiamo poi incontrato i due leader in conferenza stampa un'atmosfera, devo dire, decisamente positiva. Entrambi i leader sono andati out of their way, come si dice in inglese, hanno fatto di tutto per dimostrare sintonia e collaborazione, pur ammettendo le diversità, le differenze di cultura, le diverse posizioni, per esempio sui diritti civili o in materia politica. Sul piano personale però le cose, devo dire, sono andate molto bene. Ieri sera i due leader hanno cenato privatamente a casa di Xi, poi sono andati insieme a passeggiare per la città proibita. In tutto sono stati insieme 5 ore, ben 2 ore in più rispetto al previsto. Sul piano istituzionale, Cina e Stati Uniti col vertice di oggi hanno portato il loro rapporto effettivamente su un piano diverso, perché hanno raggiunto importanti accordi bilaterali sull'ambiente, per esempio, e intendono collaborare su un livello strategico per garantire una stabilità globale. Sentiamo Barack Obama in conferenza stampa. In this young century, the jobs we do, the prosperity we build, the environment we protect, the security that we seek, all these things are shared. Ecco, Obama qui dice che le sfide del nostro giovane nuovo secolo non possono essere raccolte a discapito di qualcun altro, devono essere raccolte insieme e con la Cina, che cresce, che è entrata nel novero delle grandi nazioni. 35 anni fa, ripete Barack Obama, si ristabilivano le relazioni diplomatiche fra Cina e Stati Uniti, e se pensiamo ai progressi che abbiamo compiuto da allora, non posso che essere ottimista su quanto il nostro rapporto possa crescere ancora. Quali sono i punti menzionati dal Presidente? Beh, intanto sicurezza regionale, un accordo militare per ridurre il rischio di incidenti, denuclearizzazione della penisola coreana, libertà di navigazione, dispute che devono essere risolte in modo legale, e soprattutto apprezzamento per l'incontro di Xi con Abe, il premier giapponese. Obama ha ribadito, c'è la politica di una sola Cina. Poi ha apprezzato il contributo che la Cina dà per la sicurezza internazionale, e ha apprezzato il fatto che la Cina condivide l'esigenza, la necessità di distruggere l'ISIL in Medio Oriente, e ha apprezzato la collaborazione della Cina nel P5, nel 5 più 1, nel negoziato per la denuclearizzazione dell'Iran. Ecco, poi una battuta di Obama sui diritti civili, perché dice: noi siamo per le libertà, sia che siamo a Parigi, a New York o a Hong Kong. Ecco, ha menzionato Hong Kong, il punto dolente per la Cina, la libertà dovrebbe prevalere dappertutto. Ha accettato il fatto che il Tibet faccia parte della Cina, ma ha chiesto che siano rispettate le libertà del popolo tibetano. Ma veniamo all'ambiente, perché è stato uno dei punti cruciali di questo vertice. I commend President Xi, his team and the Chinese government for the commitment they are making to slow, peak and then reverse the course of China's carbon emissions. Ecco, Obama ha dato conto di questo accordo importante sull'ambiente. L'America intende ridurre le emissioni di anidride carbonica fra il 26 e il 28% entro il 2025, cercherà, farà del suo meglio per raggiungere il 28%, la Cina invece raggiungerà il picco di emissioni di CO2 nel 2030 per poi stabilizzarlo e successivamente ridurlo sempre per il 2030, un impegno nuovo cinese avrà il 20% del consumo totale di energia in energia rinnovabile. Ecco, gli accordi sull'ambiente poi sono di vario genere, prevedono la costituzione di un gruppo di studio, la messa a punto di tecnologie che consentiranno di ottimizzare l'efficienza energetica, si è lanciato un progetto per collaborare sulle città intelligenti che avranno tecnologia avanzata per ottimizzare appunto i consumi energetici, si cercherà di incoraggiare il commercio in prodotti energetici verdi, insomma una pletora di iniziative. Ma sentiamo Xi Jinping. 刚才我和奥巴马总统进行了很好的会谈。 Ecco, uno dei punti più interessanti del leader cinese, che ha ribadito alcune delle cose che ha detto Obama sul piano internazionale, la necessità di collaborare e così via, ma ha detto: se lavoriamo con gli Stati Uniti insieme potremo diventare l'ancora per la stabilità globale. Ecco, un'affermazione di G2 più chiara di questa ancora non l'avevamo sentita. Dunque dobbiamo prendere atto di questo sviluppo, di questo progresso, di questo nuovo capitolo che si apre nelle relazioni fra Stati Uniti e Cina. Quello che mi ha colpito è che, seppure indirettamente, Xi ha ammesso che c'è ancora strada da fare per migliorare i diritti civili in Cina. Non ha detto che ci sono, che comunque la cultura è diversa e dunque è così. Ha detto: faremo del nostro meglio, abbiamo fatto molto e continueremo a fare. Questo è un altro punto importante, perché dimostra che la Cina si rende conto che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, con una evoluzione sul piano politico e sul piano dei diritti civili, cosa comprensibile se pensiamo a un paese che ha avuto la trasformazione che ha avuto tutto sommato in pochi anni e che ha 1,3 miliardi di persone. Comunque sia, il passo in avanti qui a Pechino è stato enorme e molto importante. Da Pechino è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno, che torna domani alle 13. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.